particolare, comunque vicino ai punti. Due case, il fratello gli aveva pagato e accettato i soldi, la sua non era ancora finita la casa, gli aveva valutata, adesso non voglio dire una cifra sballata, mi sembra 200.000 lire, e 200 milioni di lire allora era. La casa sua non era ancora finita perché c'erano solo gli infissi e non ci abita, poi ha fatto un calzotto nero, si è salito sopra un traliccio dell'Ene, però prima ha fatto staccare la corrente. Mi butto qua. Ma il fatto, cacchio, gli hanno ripagato il doppio del valore della casa, è vero Ardini? L'Enel ha pagato gli Andrea Doledina il doppio di quello che era il valore. Alla fine lui è sceso tranquillo, mi butto, sono venuti i sindaci, non i sindaci, il prefetto, un sacco di quaccello di gente. E lui, tanto dice, non so come ha fatto un insegnato, e gli hanno pagato la casa il doppio. Sì, una volta l'ho vista anche una portatore, se invece uno di quei fari che ci sono al porto, in alto si voleva buttare, sono stato anche lo cervo a lavoro per fare qualcosa del genere. La gente alla fine esce di testa, queste cose, sono, vedi che non c'è un'uscita, i problemi, c'è chi reagisce, c'è chi invece non ve la va. Mio cognato ne ha salvato uno, è salito a un forza della stessa persona, in questa gru è salito in alto e si voleva buttare su, è stato un'oretta parlando da tutto, lui fa parte dei SEAF, dei vigili del fuoco, quelli che si buttano nei pozzi, le grotte, tutto qua, è salito, è stato un'ora parlando, l'ha rassicurato e piano piano si è avvicinato, l'ha abbracciato, l'ha imbragato e l'hanno portato giù, è riuscito a rincuorarlo, piangendo, dice che sarebbe una pena perché aveva perso il lavoro, poi non so cosa gli era successo, era un bel, si stava buttando veramente, poi è stato l'amico mio, no, ha detto non so come fa, sta di fatto che gli hanno rifatto la casa nuova, non come ce l'aveva prima, però da un'altra parte nel suo terreno, l'hanno buttata a terra, gli hanno ricostruita nuova, da zero, la sua non era finita, allora lui ha detto no, io non mi sta dando poco, alla fine ha rifatto una casa nuova uguale alla sua, leggermente in un'altra posizione, finita. Almeno ha ottenuto quello che ha comprato. No, questo non è stupido, ha fatto certe studie, ma proprio di quelle che attirano l'attenzione, è come quelli che si incatenano, uno su uno adesso che si è incatenato, e anche a vedere se l'hanno ascoltato. Sono gli estremi, magari c'è chi ha il coraggio di farlo, chi non ce l'ha. Io se cazzo, sul palo della luce vado, perché soffro di vertigini. No, ma questo è salito in quei tralicci della tensione, quelli che passa da 200.000 o 300.000 volt, allora avevano già staccato la corrente, è stato furbo, l'avevano già interrotta prima di salire, perché di lì dopo i 7 metri le cose elettrostatiche ti fulmina, anche se non sei vicino ai cavi, hanno attaccato la corrente, subito hanno chiamato il vigile del fuoco, hanno attaccato, dice c'è uno che si è arrampicato, ma lui si è messo in posizione dove c'è scritto pericolo di morte, Fukimi, poi ha attaccato la corrente e lui è salito più in alto, però sapeva non c'era la corrente. Aspetta, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, sentiamo 10 che vuole entrare, ecco Claudio, non si è sentito. Chi? Claudio. No, c'è tutta Natalino, sono appresso, per cui io sono andato a farmi l'impasto e quindi ho dovuto lasciare. Ma una domanda, ma l'Ecco si inserisce in automatico o lo metti tu già? No, questo qui c'è sempre, l'Ecco c'è sempre, guarda. Se io lo abbasso e c'è l'Ecco, guarda, 1, 2, 3, guarda così si sente. Un pochettino, prova a toglierlo del tutto adesso. Prova, così si sente. No, ma cos'è, sul microfono o sull'apparato? Microfono. Perché le altre volte non si comprende nulla, ripeti, dici una parola e lo dice due volte, non riesce a... devi stare attento, se non stai attento perdi il discorso. Ok, Natalino pure c'è. Adesso c'è l'Ecco. No, Natalino non c'è, c'era poco fa, non so se sia rientrato, Adesso c'è l'Ecco. No, così è perfetta, pulita e chiara, dici. Vabbè, lo lascio chiuso così, dai. Però magari abbassa la radio. Ma cosa, è fortissima la radio, va benissimo. Adesso mi ascolti in cucina. E cosa, un muro sullo stesso, l'ho sentito un paio di volte facendo prove, non sta più entrando, c'era tanta passione che aveva arrugginito Claudio, l'ho sentito due volte di sfuggita. Claudio ci dai di ex, capito, ma il mando laterale, eccetera. Ha la passione di DX, me l'ha sempre detto, e ha la passione proprio di fare DX, e quando è periodo non si fa sentire qua nei canali normali, va su, va da tutte le parti. Sì, ma poi c'è nominativo, gli ha dato anche un nominativo a lui. Sì, lo so. Mi ha mandato il link per iscrivermi a questo, non mi ricordo dove cazzo sono, un una di roba siciliana, cireale, qualcosa del genere, ti iscrivi a questa associazione, ti danno un nominativo e puoi andare anche leggermente fuori frequenza di quelle normali dei 40 canali. Tipo l'Alfa Tango, dai. Tipo l'Alfa Tango, però non mi ricordo come si chiamano questi qui, mi ha mandato il link, mi ha detto, te lo mandano subito, ti mandano un tesserino, tipo una QSL, ti scrivono il tuo nome, e tanto a loro li conviene perché più iscritti c'hai, se non c'è un'associazione, più iscritti c'hai, se chiedi contributi, i contributi sono in base al numero di iscritti e agli eventi che organizzi, come facevamo noi nella squadra di calcio, cioè avevi per dire 200 atleti e ti danno ogni atleto 0,3 punti, per 200, poi quante partite hai organizzato o hai partecipato, altri 100 punti, e in base a quel punteggio lì ti danno il contributo, e così sono anche per le associazioni questi dei CB o di amatori o cosa sia. Ho capito, dai. E già va bene, aspetta che io provo a regolarmi un po', guarda, così va benissimo, troppo ce ne dico, no? Così va bene. C'è un peluzzino, boh. E infatti così va bene, dai. Lo stavo regolando con le cuffie. E è un microfono, diciamo che è incrociato, dai, di quelli... di quelli microfono di un tipo, capsula di un altro e via dicendo, va alla grana. La cosa è M600 o M300? Alla capsula di M300. Ah, una capsula di M300, il microfono è un microfono di vecchia era, è nuovo ma di vecchia era. Vabbè, è stato fatto un incrucchio. Ma da Palmo o da Tavolo? Da Palmo. Tu sei fissato, vabbè, a me me ne regali il più bello del mondo, da Palmo non ci riesco a usarlo, è una cosa che non mi piace. Lo so, ma io dipende sempre dalle esigenze che c'hai, io se sto coricato mi va benissimo, poi c'ha cavo morbido, è praticamente perfetto il cavo morbido c'ha. Sì, no, vabbè, tutto lo usi anche da noi, io l'ho coricato, a parte che la stazione è tutta da un'altra parte della casa, no? Quindi al limite quando sono coricato mi porto quel ricevitorino piccolino con la radiolina e ascolto così ogni tanto, però non posso, cioè anche avendo la possibilità di avere il baracchino a fianco al letto, no, non ci riuscirei a parlare così. Io sì, Roberto, sai che spengo là? Sta fischiando. Io sì che ci riesco perché a volte bisogna di riposare, mi corico e mi rilascio così, capito? Sì, ma dimmi una cosa, questo che è radio, e se no, cos'è? No, questo qua è il Cobra, il Cobra di X, 200 di X. E il coso, il Saturneco ancora ce l'ha? Sì. Quanti anni ce l'hai quel Saturneco? Da quando ti conosco io, mi pare, 10, 15 anni, quanti anni avevi? Ne ho avuto diversi, questo qua è l'ultimo, quello che mi ha venduto Gio Maria, questo ci avrà un 6 anni. Dai. Poi Gio Maria le teneva bene le radio, questo non è manomesso, è pulito, naturale. Sì, ma anche Saturneco qua, ce l'ho con le... l'ho abbinato a Super Siderik, come lo chiamano, sai di chi si chiama comunque, non Siderik. Vabbè, già ci siamo capiti. No, perché tutti i Saturneco, il 99,9% sono tutti manomessi, tutti per dargli qualche watt in più, che non c'ha nulla se te ne da 8 o se ne da 12 o 15, non c'ha proprio nulla, ti crea solo problemi e boh. Infatti io dico, quel tipo di apparati lasciali sempre tranquilli, puliti, al limite se c'è qualche condensatore dell'alimentazione, perché di lì qualche condensatore partiva, perché erano un po' di scarsa qualità. Per il resto, se li lasci stare originali durano una vita quegli apparati. Sì, lo so, Robe. No, questo qua è proprio originale come dalla casa. Da 9 watt in AM e mi pare 12 in mando laterale. Appunto, tanto se gli tiri il collo, gli fai dare 12-15, li stai tirando il collo e transitano, iniziano a saturare, a rosare, ti creano solo problemi. Per cui se poi ti vuoi aggiungere qualcosa lo metti esterno, secondo me, se uno vuole aumentare, senza lavorare sull'apparato, perché uno è convinto, se ne hai 5, ne hai 10, cambi qualcosa, non c'ha proprio nulla. Poi sono spurie. A parte le spurie, crei saturazione del transito, è come che tu prendi una macchina, anziché far andare al regime di coppia, per dire a 3500 giri, stai cambiando sempre a 5000 giri, un diesel, lo crepi così, e lì un transito, devi far lavorare il regime di lavoro in cui il calore che genera, non viene dissipata, cioè la potenza non viene dissipata in calore, è come che tu li tiri il collo, se quello è calcolato per lavorare a velocità di crociera come una barca, facciamo esempio una barca a 30 nodi e arriva a 40 di massimo, tu non puoi stare sempre a 40 nudi, deve andare a quella velocità di croce, così è transito. Se è calibrato che ti deve dare 6 watt in condizioni ottimali, ne può dare anche 9-10, però tirandoli il collo, cosa andai? Inizia ad avere distorsioni e a creare spughe, armoniche, eccetera, eccetera. Non bisogna mai tirarli il collo, così come tirano il collo gli alimentatori. E anche te li fanno con i dissipatori, per farti dire che ti danno anziché 10 watt ne da 12, li mettono un dissipatore, vedi, questi dissipatori in ebollizione li mettono a me. Invece no, cacchio, non deve essere così. Sono sempre io con Saturno, come sta andando? È un bel forte, è un po' rimbombante la voce, forse è troppo alta. Guarda così? Fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo è il Galaxy Saturneco con Super Sidekick. Questo è un po' più graffiante come modulazione, cioè un pochettino più di acuti, bella, chiara, però l'altra sinceramente forse era un po' meglio, più naturale. Questa è più da combattimento. Vabbè. E ce n'è da provare, c'ho un Royce che è fermo, so un po' che non lo uso. Nel Royce ho messo un capo del microfono qua, perché se lo vedi sarà lungo 1,5 metri, penso. Non abbassarlo appena appena questo mic gain. Guarda, per bene, abbassato. Adesso è troppo alto, un po' di più. Guarda. Tu non hai cambiato niente. Così. Prova a parlare. Ecco, guarda, 1, 2, 3, prova radio. Sì, così va abbastanza bene, dai. Chiara e pulita, perché sennò si smambava troppo, sembrava una stanza vuota. No, la stanza già è piena, ma non c'è nessuno, quindi non succedono casini attorno e niente, sono solo uno. No, già va bene, dai. Caraga. Stavo dicendo, beh, il camper te lo stai usando? Sono uscito, ma veloce, domenica sono andato a Stintino, questo posto che vado io, poi ho fatto un giro alla gentiera, ma tutto in giornata, ero un po' stanchino, forse sabato prossimo vado da qualche parte, vado verso Rosé, quelle zone di adesso vedo, un pochettino. Quella mi manca, il golfo di Rosé mi manca. Vado di lì che è bello, un po' tranquillo, poi la sera se vuoi fare qualcosa, ti vuoi mangiare una pizza in questo camping, si sta bene, a Saprà, ma te la liberotto di lì, poi se ne vai in spiaggia, c'è la spiaggia a 10 metri da dove metti il camper, è comodissimo per quello, poi sicuramente ci sono altri posti molto più belli, però questo è comodo perché è rilassante, poi non c'è caldo, ci sono alberi, per quello vado di lì. E a Stintino pagare molto ti hanno fatto per parcheggiare? No, dove vado io è un posto poco frequentato, non vedo nessuno. E Tamerici, non so se lo sai dove, hanno fatto una strada l'anno scorso, e si passa prima di arrivare proprio a Stintino, dove c'è scritto la rotatoria Stintino, superi quello lì e giri a destra, c'è scritto Litoranea Panoramica, è la vecchia strada panoramica, l'hanno fatta 77, hanno fatto la pista ciclabile, entri di lì e sei sugli sculli, è una zona residenziale, sono tutte villette e ci sono queste specie di, chiamiamole calette, dai scusi sono, dai. Qualche giorno lì c'è una gabbina dell'Enel grande e non si può mai nessuno, mi metto di lì e mi fa ombra la gabbina e ci sono degli alberi, non dico che sia un posto ideale, però ti prendi la maschera, ti fa un girettino, a me piace andare a farti la nuotata con la maschera e vado lì. Dov'è? Vicino al cimitero rimane, nella panorama. Rimane il cimitero, scusate, ma telefono già. Gianni! Ehi, Atari, avanti! Beh, fatto te l'hai quella cosa? Sì, già l'ho fatto vicino a casa, mi hanno fatto pagare 2 euro, non me l'hanno fatto gratis a me. Mi ha detto che la stampa bisogna pagare. La stampa è su uno. A mia moglie grazie se gliel'hanno fatto, vabbè, beh, fa 2 euro, a tutti i dini già. In più tanto si era già negato. Ehi, ciao. Lo sai cos'è? Non è le 2 euro Natali, è che là Tony, perché io sono lì solo cliente e dovrebbero farmelo gratis lì. Se te l'hanno fatto a te perché sei cliente vuol dire che anche a me dovrebbero farmelo lì. Invece a me ma non è che mi si attacca da isso, mi deve dare 2 euro per la stampa. Ehi, cazzo, già siamo bucati. Infatti non vedo più andato a pigliare un cazzo. Abbiamo già andato in farmacia. Ma io ho fatto una cosa del genere, non per le 2 euro, cosa sono, non si fanno né ricche né poi, ma per l'azione che ha fatto. E l'altra non te ne ha voluto neanche fare, perché te lo doveva fare lo stesso. No, la stessa, ha detto che ancora non li stavano facendo quando glielo ho chiesto io. E vabbè, interessante che mi dà Giovanna, te l'hai fatto guardi mio, almeno ce l'ho e buonanotte, perché Federica la fidatina ha partorito e praticamente sono in ci vuole questo. E vabbè, già, affrontiamo. L'importante è che ce l'ha. Fatti una fotocopia al limite di quello e l'altra, e una te la metti nel borsetto e una te la lasci a casa. Sei sicuro, no? Lo sai che ci rovini, se no ti tocca fartelo ristampare. Infatti lo faccio domani, domani quando esco lo faccio. Così almeno ne ho una di riserva. Sì, sì, hai ragione. Ma l'ha tutto piegato bene come deve essere piegato. Eoia, mamma mia. Quante cavolate. Ma vabbè, l'importante te l'abbiamo fatto. Se non venivi qua da queste parti qua te lo facevi. Chiunque te lo faceva. Anzi, sicuramente non te ne avrebbe neanche fatto pagare. Sì, vabbè, si la mille luci, interessante a quella, perché quello che mi premeva era quello, perché fanno ricevimento al ristorante e c'è, mi ha scritto, Federica mi ha scritto, devo già ricordati il passo perché se non c'è quello non ti fanno entrare. E infatti, perché quello rischia la chiusura se fa entrare qualcuno, magari arriva qualche controllo lì e riserva le attività e a guida, ricomvene. Non ti fanno entrare, no? Se non sai l'impasto non ti fanno entrare in certi posti. Dove c'è assembramento te lo devi aspettare. Ma ti fanno entrare perché tu sei cuoco, male. Magari avanti l'alghero io, tu dove vai la gente che vela, tutti senza mascherina, assembramenti solo, vedi? Sono rientrato io. Ok, ciao Robè. Salutami a Maestrale quando lo senti e digli che cosa mi è capitato, che lui manco lo sa sicuramente. Già glielo dico, dai. Ci sono sentiti proprio stasera, vabbè, non voglio dire delle cose personali, ma mi ha chiesto un favore e ho cercato di aiutarlo. Ok, no, sempre in gamba, Salvatore è un amico, proprio amico amico. Sì, lo so, lo so. È che io non ho avuto modo mai di poterlo contattare, vabbè dai. Già, se glielo dici tu quando lo senti, è uguale. Lo sai quanto ti manca la frequenza, tu non eri a salutami a tutti, Natalino, soprattutto a te, dice Natalino, Claudio, già, a Natalino in particolare, a te sei affezionato, me l'ha detto. E sentiamoci, metto su CB Talk, mettiamoci d'accordo, magari ci mandiamo un messaggio, così parliamo tutti insieme come facevamo un'altra volta. E possiamo fare anche così, basta che ci mettiamo d'accordo. E eravamo molto amici con Salvatore. Già lo so, caro. Poi Salvatore è una persona educatissima, rispettosa, tanto di cappello, infatti ho legato bene con lui proprio per quello, poi a parte altri discorsi fuori dal baracchino, una persona squisita, posso solo parlare bene di Salvatore. No, è una brava persona Salvatore, e poi ci conoscevamo e eravamo molto amici, ti ripeto, quindi è per quello che mi cerca, ma io non so neanche il numero suo di telefono, è fatto dall'improvviso, boh, fuggito, la ministra. Ma cioè ti chiedi l'amicizia su coso? Su Messenger, su, ma che si chiama, su Facebook, te la dammi, lo cerchi e te la manda Natalia e poi di lì gli mandi i messaggi. Infatti oggi abbiamo fatto la videochiamata da coso, da Messenger, se no su WhatsApp ci sente, vabbè io ho anche il suo numero, non c'è problema, se vuoi te lo posso anche dare, glielo dico, penso che non ci siano problemi di datela, anche se dovresti avere un telefono abilitato per fare le chiamate internazionali. E cosa ci vuole per abilitarlo? Io non lo so. Magari ci vuole la scheda abilitata. Non lo so, perché qualcuno c'ha, non ti permette molti telefonini se non ho loro attivi. Io ho una scheda internazionale e posso parlare con tutto il mondo perché la scheda è per stranieri e non ci sono problemi. Però bisogna vedere se tu fai il roaming che gliela mettono in carica lui, la telefonata è su dinamica. Quello è che non voglio fare. Io ho un Samsung, sì, un A20 c'ho, ma non so se è abilitato per le chiamate internazionali. No, no, vabbè, non è, i telefoni sono tutti, lo puoi fare con tutti i telefoni, però molte volte c'ha il blocco, non ti permette di fare i numeri internazionali, perché devi fare, mi sembra sia più 50, no, più 55, no, no, sto dicendo forse più 55, un'altra Albania era più 55, adesso non mi ricordo quanto sia l'Austria, adesso aspettami, forse ce l'ho scritto qua. Continuate voi, guarda quello salvato un attimo come prefisso dell'auto. Ma non dire il numero qua, No, ci mancherebbe. No, voglio capire il prefisso, non me lo ricordo. Noi a Natale noi eravamo sempre lì da Salvatore. Ma passavamo un po' spesso, te lo ricordi Natale? Eravamo molto amici con Salvatore, solo che da lui è scomparso e cosa vuoi fare? Si è facciuto in chivi. Io l'ho visto un giorno che si stava sposando il figlio, mi sembra, ed era qua a Sassari. Ma da molto però questa storia, infatti penso che lui non lo sappia che ho avuto tutti questi problemi di salute e tutto, è per quello che gli ho detto a Roberto, salutamelo e dici quello che mi è capitato, perché sicuramente non lo sa lui. No, non credo che lo sappia. Comunque il prefisso della nostra è più 43, poi il suo numero inizia con 664, bisogna altri 20 numeri, è un bel lungo il numero di Salvatore. Più 43 bisogna fare poi il numero internazionale. No, Salvatore era venuto qua un paio di anni fa, doveva sistemare una cosa, roba personale, dai, non si può dire qua. Era passato in officina a trovarmi col figlio. E poi, quanti anni prima, un anno prima era venuto. No, ma con Salvatore poi aveva fatto il battesimo della moglie, la moglie si era battezzata, perché di lì loro sono di religione mormone, aveva adorato una sala, aveva fatto un coso, il battesimo, bella gente, aveva fatto conoscere un sacco di persone e hanno fatto il battesimo, perché di lì lo fanno da grandi, non è come da noi, non so se lo facciano anche da piccoli, però l'hanno fatto da grandi. E lì si fa così perché magari uno prima è cattolico e deve rinunciare prima al cattolicismo e poi fanno il battesimo della nuova religione. No, sono sempre cattolici, loro sono cristiani però mormoni, loro hanno il Vecchio Testamento, per cui certe cose che noi facciamo, per dire, tipo gli islamici non possono bere alcolici, tutte queste cose qua, loro non possono fare Coca-Cola, tutte queste cose loro non le possono prendere, credo che neanche il caffè possa prendere, e bevono solo loro acqua, aranciata, limonate, cose naturali, cose strane non ne possono bere. È una religione loro, uguale alla religione cattolica, credono come ci abbiamo noi, Gesù, il coso, Dio, non so se ci sia la Madonna però, quello non te lo so dire. Sì, vabbè, su questo non sono addentro, però so che quelli che cambiano religione devono rinunciare al cattolicesimo, anche quelli che vanno nella religione dei protestanti, come si chiama, quelli, i testimoni di Geova. Non so perché il parroco ce l'ha detto, no? Che quelli rinunciano e se ne vanno nell'altra religione, si battezzano da grandi per quello. Sì, ma testimoni di Geova, stiamo parlando di una setta, è un'altra cosa. Questi nella religione cattolica però seguono il Vecchio Testamento, il tempo di Mosè, cose del genere, no? Non hanno tutto il discorso dopo da quando è sceso Gesù Cristo nella terra, tutti i santi, tutte queste cose, loro non li curino, nel senso non li pregano. E dice, però tutto il resto è uguale alla religione cattolica, come la religione ortodossa. Io è capitato anni fa, un 3 anni fa, sono andato per vedere una chiesa ortodossa fuori all'estero e ho seguito la messa, potete avere, sono entrato e ho visto la messa, è uguale, identica alla nostra, non cambiava una virgola. Ma che c'è, cosa vedi diverso? Era tutto preciso, uguale. E in Russia vanno, ci sono tanti tipi di cattolicesimo, ci sono gli ortodossi e quelli, ce n'è un bel in Russia, mi di quelli. Alghero c'è la chiesa ortodossa che io sappia. Sì, allora che già ne ha. Sì, io ho un nipote che è mormone. E Salvatore era presidente lì dei mormoni. Lo conoscono tutti qua. Sì, ma è molto conosciuto perché poi mi ha presentato delle persone quando sono andato di lì, ma persone molto collocate, nel senso in posizioni molto importanti, che poi ci siamo trovati, qualche lavoro me l'ha mandato in officina, e ci siamo rivolti dopo, lei è amico di Salvatore, brava persona. Poi ci sono, loro si chiamano fratelli e sorelle, perché dice, tipo quei film, ricordi Terrence Hill, la Trinità, quelle tipi di lì contro la violenza, cose così, quelle cose di, e la religione sembra antica, ai tempi del Far West. Allora, se tu vai alla chiesa dei Borboni, è proprio di fronte a casa mia, Roberto, non so se tu lo sai, se tu vai lì, c'è scritto all'entrata, chiesa dei santi degli ultimi giorni. Sì, lo so, ci sono andato di là, ma lì facevano anche, io tra i sono cattolico, cattolico romano, come si dice, però non ascolto tutto. Io ho avuto anche amici di religione diversa, molto amici, nel senso, mi informo di tutto, ho visto il Corano, ho parlato di tante cose. Io ascolto tutte le religioni, non sopporto le sette, tutte le rite così strane, tipo Scientology, Geova e cose del genere, quelli assolutamente no, però altre religioni, religione islamica, religione Matushi, che ho ascoltato, Metashi no, si chiama, vabbè, questi mormoni, eccetera, eccetera, li ascolto tutti, poi ognuno fa quello che vuole, però non accetto quelle sette che fanno queste cose strane, sacrifici, cose così, di cose che ne prendono i soldi. Mi conosco più di una persona che si è arruinata con queste cose qua. Ma sto Robert, ma tu che te ne vedi le religioni, questo evangelista, che cosa sono quelli di Geova? Eia. Ecco, quella che c'è via Valle da ora è di Geova, perché si chiama chiesa evangelista. Evangelica, una cosa del genere. E ce ne sono tanti, vedi, queste pseudo-religioni. Però noi siamo nati con quella cattolica, adesso un po' di gente sta perdendo un sacco di colpi la religione cattolica, ma conosco un sacco di gente che si vuole togliere il battesimo, farsi togliere il battesimo perché è diventato buddista, gente che c'ha il figlio, persone carissime, amici miei, che non c'ha neanche un anno, il figlio di nato a dicembre dell'anno scorso, non c'ha neanche un anno, non gli frega niente di battezzarlo, proprio no, non lo battezziamo. E loro assolutamente di religione cattolica, il padre e la madre super praticanti, fanno parte di cose di chiesa, eccetera, loro e si sono sposati e dice no, non ne facciamo. E io avevo un amico che diceva che la religione cattolica sbagliava a battezzarli da piccoli. Dice, ma io devo decidere io quando sono grande se battezzarmi o no. Ah, per me sono macchine queste cose, perché poi se sei grande continui a seguirla, se non te frega niente non la segui, io la vedo così. Io, tu sei mio figlio, io ti do una responsabilità, io ti sto dando un'educazione, poi se tu l'educazione è che ti sto dando io, lo accetti. Poi quando c'è 18 anni dice basta, non me ne frega niente. Io ne conosco tanti di ragazzi battezzati che non gliene ha fottuto della religione, anzi, se dice io in chiesa, ci vado, ma nemmeno, molte volte neanche ai matrimoni, rimangono fuori, proprio hanno avuto una negazione, così, purtroppo così è la vita. E più stiamo andando mi sto accorgendo, la religione cattolica sta perdendo tanti seguaci, soprattutto perché ci sono tutte queste porcherie di pedofilia e cose strane che ne hanno fatto. Purtroppo adesso ci sono, esistevano anche prima, forse prima ce n'era anche di più, però adesso non puoi dire una cosa che appare subito su internet, e cadde da lì, ne fanno una tragedia, tutti i preti a quel punto diventano dei maniaci e dei pedofili. Anche prima io, ho avuto sempre un'educazione cattolica, perché mio padre era attore cattolica, ho fatto il chirichetto, ho fatto lo scout, ho fatto il lupetto, insomma, sono stato sempre nella chiesa, però si è sgamato che hanno trovato che dei feti sepolti, capito, nel campo del coso delle, diciamo, dove c'è il Papa lì, hanno trovato dei feti di bambini, capito? Certo, perché in Canada cosa è successo, non so quanti migliaia di bambini in quello farotruffio di gente, degli indigeni, diciamo, degli abitanti dei luoghi dal 1800 che pigliavano e li facevano sparire, adesso le stanno uscendo i colpi, purtroppo le schifezze le ha fatte la Chiesa, avrà fatto anche cose buone, non lo possiamo negare, però ha fatto anche delle schifezze, però purtroppo non è detto che siano tutti così, perché io conosco dei preti missionari che sono stati 40 anni in Brasile, nella giungla, a insegnare missionari, ma sono delle persone che anche proprio stando con gli uomini primitivi, delle persone, ma quelli sono veramente delle persone speciali. Io ho un nipote, un cugino che era un prete di pigliarla in quel posto, ne ha fatto di tutto e di più, si è convertito, adesso è diventato frate già da una decina d'anni, quelli che camminano scarti, frati francescani con la barba lunga, Mario un uomo vecchio, se lo vedi, è molto più piccolo di me, eppure adesso è diventato, dicevo, ti ricordi quanto eri pure di te? Sì, ma ho avuto sono cambiate le cose così. Poi magari ci sono quelli che cambiano per altri motivi e fanno cose che non dovrebbero fare. Purtroppo però non bisogna fare tutto un erba un fascio, perché anche la religione, quella che è l'antagonista della cattolica, non lo diciamo qual è, anche lì ci sono degli fanatici che ammazzano le persone e la maggior parte di quelli non sono così. Purtroppo bisogna rimanere da tutte le parti. Vabbè, senza fare nomi, quello che correva in moto ha fatto più o meno la stessa cosa. Quello che correva in moto? Sì, quello che correva alla Piccana. Il famoso di Sassari, che corriva in moto. Vabbè, sarà loro scala la Piccana, abbiamo capito. No, no, stavo pensando a Valentino Ruzzi. Adesso c'è qualcuno che vuole entrare avanti, che altro tu sei. Ehi, buonasera. Ehi, lo conosco che è. E lo conosco per puro. Giobbina se li prende. Le bombole che aveva a riga. È diventato tipo un prete. Fa un programma al televisore di convertirsi, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. La grotta a Capura l'ha dato e quindi la è diventato brite. L'ha parata la grotta in capo, è diventato brite. Vabbè, dai, io vado a mangiare, dai, ci sentiamo. Ehi, ciao a tutti, buon appetito, là. Avanti, vabbè, tu fai già parlare. E altro ben sentito là. E probabilmente quello ha avuto un incidente brutto, cioè salvato, è diventato un predicatore. Avanti Natale. E infatti mi pare una pigliata su Ciumaro, visto, diventa così mansueto. Tu dove vedi la Gaza, sopra via Carlo Felice, lì, attendi in chi per salvare la scala di gioca. Per una 10 a fare. Ma che mi appena già dalla vostra fotografia della vostra vedi. Da poi usiamo lavori in un computer, comanda ombra a casa Giulia. Ma che mo per lì, va? Dai, andiamo a mangiare. Sì, andiamo a mangiare, va. Ciao Antu. Sì, già c'è ancora. Perché? Mira Giulio, mi ha detto, come mai non sei sentito Giulio oggi? Vedo me, avanti Giulio. Ciao, vabbè. Ciao Gianni, ciao Natalino, saluto a tutti. Ciao Antonio. Buona, buona cena. Sì, vabbè, state parlando del teologo, ho capito. Va bene, io sono uno Susano, nel senso che le cadute che ha preso in moto no, non si è salvato nemmeno l'osso, tutti vedranno fratturati, naturalmente tutto è guarito dappertutto, è chiaro? Vai già. Sì, i dolori sono rimasti. E vabbè, comunque se, sembra un'altra persona, prima era gambisciabitato. Vabbè, quando era ragazzo, quando era giovane, aveva la mania delle corse in moto, scala di gioca, lo conosce bene, a lui l'asfalto soprattutto lo conosce bene, di scala di gioca, che ha fatto tante di quelle cadute e tante di quelle fratture che non si possono nemmeno contare. Va bene, avanti Natali. Ciao, Giù, buonasera, ben entrato. E una vara pigliata sui Ciumaro, paghisso. Stando un leggero a un capo di gomma, per cui no, ma adesso ci siamo lo stesso la posta, dai. Adesso è tranquillo. State parlando di diciamo che adesso con la sua vita ce la sta vivendo. Avete parlato in due. Avanti, Robe. Giulio e Gianni, avete parlato in due, non si è capito niente, vi siete annientati a vicenda. Io non lo conosco da quando sono un bambino, perché abitava qua vicino, conosco molto bene i figli, la moglie, tutti quanti li conosco. I figli sono più capisciabili del rubabo. Il padre è proprio, l'ho seduto anche in moto, l'ho accompagnato un giorno con la moto mia che era un chiodo, non camminava niente, lui cagato, sto camminando piano, sto camminando piano. Ha detto, cacca, proprio tu parli, cacco, che sei un pericolo pubblico. Vabbè, vai a casa. Però quelli che sono così temono di più se non guidano loro, capito? A pensare alcuni anni fa, parlando del figlio che aveva picchiato il padre, non era stato pubblicato anche l'articolo sul giornale, che un figlio l'abbia massacrato, ma comunque, affari loro, specchio per loro. Vai Gianni. Cioè a Giuffina va picchiato. Allora il figlio l'aveva massacrato, la cottura giusta era stato truccato, era sul giornale anche. Una volta ci aveva detto si andava a scaricare carteggirica quando c'era l'avviare il portofoglio. Ci voleva dare 10.000 lire per scaricare carteggirica. Vabbè. comunque adesso. No, a me non capisco come mai, vabbè, forse non ha le possibilità, come mai quella struttura che dove c'è l'attività non l'ha mai portata avanti, si sta decadendo in una maniera impressionante, tutti i ferri che puntano dalla costruzione, tutti arrugginiti. Se continua così, a parte il fatto che tempo fa era caduto un muro e fortunatamente non era successo niente di grave, però era caduto un muro, tu immaginati, se cadeva nel momento che magari entrava qualche cliente nel negozio l'avrebbe ammazzato. Dunque non va bene così. Vabbè, comunque, affari loro. Avanti, Natalia. Io sapevo che gli avevano bloccato i lavori, perché era abusiva quella storia. Non è così. Non è che sia abusiva, diciamo che mi sono mancati i contributi, dai, mettiamola su questo piano. Mi sono mancati il meglio, e cioè i soldi. Vabbè, comunque, poveretto, anche lui si è arrangiato, lasciamolo fare, si riprenderà. Avanti, Robe. Sì, ha detto Giulio, gli sono mancati le dinà. Ma tu hai idea cosa ha speso di ferro? Lui l'errore suo che l'ha fatto tutta la struttura in una volta, anziché farla a pezzi, per dire fai un piano, fai il piano sotto dove vende la frutta, tutta quella roba lì e la carne. Sotto, non so se siete andati, c'è il coso che vende la carne, dietro si scende e c'è lo gestisce il figlio. E poi c'è un negozio che vende roba di stoffa e cose del genere, vestiario, lo stesso. Il figlio, e poi al piano di sopra c'è il vero e proprio ombra. Lui si doveva fermare di lì e chiudere e fare bene quello lì e poi fare un altro piano tra 10 anni e fare un altro piano. Poi tra altri 5 anni un altro piano. Invece lui ha voluto fare tutta la struttura completa in greco e non la finirà mai, perché non ce l'ha i soldi per finire, ci vogliono centinaia di migliaia di euro per finirla. Infatti me l'ha detto lui, non ce la faremo mai a finirla. Sì, beh, ovviamente ci vogliono tanti soldi, anche perché è una struttura abbastanza grande, per cui è chiaro che un sacco di soldi ci vogliono, però io le auguro buona fortuna, tutto lì, non posso dire altro. Avanti Gianni. Ehi, ho detto, se non lo faceva più basso, il negozio ce l'aveva lo stesso. Vabbè, ma noi non lo sappiamo le cose sue, come erano, le idee sue e i progetti suoi, quali fossero, noi non li sappiamo, per cui può darsi che magari lui contava su qualche aiuto, perché sicuramente aiuti li ha avuto, se no non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto, però evidentemente gli aiuti poi sono mancati e allora ecco che la struttura si è bloccata così. Ma io le auguro tutta la fortuna di questo mondo, per carità, ci mancherebbe altro. Avanti Natali. E infatti, cosa vuol dire che hai sbagliato e doveva farlo tutta ora, come sta dicendo Roberto, se no vai rigondi, inutili. Allora, il problema è questo qua, lui l'ha fatto oltre che nei modi sbagliati, nei tempi sbagliati, perché se l'avesse fatto male 10 anni prima l'avrebbe concluso il lavoro. Purtroppo poi sono entrato tutta questa grande distribuzione, città mercate, ma era giusto e gli ha spezzato le gambe, perché lui all'inizio lavorava parecchio, parliamo 40 anni fa, lavorava tanto e tanto, perché faceva anche la grossista, eccetera. Poi, come ha iniziato a diminuire il lavoro, lui si doveva rendere conto che gli stavano portando via la clientela, perché poi c'era centro casa, quegli altri, e altri cose di distribuzione, gli hanno bruciato tutto, per cui ha dovuto bloccare. Ecco, ci sono entrato. Sì, infatti, sfortunato. E purtroppo non è che se lo compra nessuno quel locale lì, lui c'ha le rampe per salire, però dovresti spendere un bel di denaro per metterlo a posto, perché uno dice tipo come ha fatto Aiko giù a coso, dove c'è, come si chiama, Bricome, però lì è stato furbo, come ti ha visto che andava male, tutto, si è venduto tutto, ha dato l'aria, ha distribuito i prefabbricati e tutto, ed è riuscito alla pari. Bisogna si fuggire pure. Mi ha tu, io già mangiato tu. Ehi, ha già mangiato. No, ma secondo me è proprio una cosa sua. Un gasasoio è così, mi ha fatto un tetto indispensabile, però ancora è a cantiere. È proprio una cosa che va a etto, Capito, prima o poi la finirà, ma sono proprio cuciccio. No, non la finisce, ce ne sono tanti capannoni a Predaneda, guarda quello bifulco che c'è a Predaneda, ho altri 3 o 4 grossi, tutti fermi. Coso, non si chiama, dove c'era a Napoli, Brick House, di lì è stato furbo anche lui, ha dato alla Lidl, se li fatti in furgo al momento opportuno, quando vengono questi grandi distributori, non riesce a dare un multireddo, quello grosso, c'ha mi pare 10.000 metri quadri. Adesso c'erano delle proposte, ma di là non viene giù. Già lo so, se era stato costruito l'avrebbe già andato, però le era costruendi. Di là non venne. Capito, se l'avrebbe finita quell'opera sarebbe stato buono. Questo è un problema dell'imprenditoria commerciale di Sassari, perché le grandi distribuzioni hanno praticamente messo in crisi un po' tutto il mondo commerciale sassarese. Lo sappiamo, questo è anche da capire tante volte, chi non ce la può fare a completare un certo discorso, un certo progetto, chiaramente non è che non sia capace, perché mancano proprio le risorse. Perché? Perché magari gli affari non vanno come avrebbero magari potuto pensare che andassero, proprio a causa delle grandi distribuzioni, ma non solamente in campo alimentare eccetera, ma in campo di tessile, in qualsiasi tipo di attività imprenditoriale. Così Sassari è penalizzato in una maniera impressionante, troppa gente. Basta pensare ad esempio, mi tanto per dire una, in questa borgata dove abito io ci sono roba di 5-6 supermercati, ma dimmi tu che al momento cazzo ci sono nella Sassari, ci sono qua 5-6 supermercati, è assurdo. Vai Gianni. È un po' da tutte le parti così, a Sorso lo stesso, c'è uno Spin, ce ne sono mille, ci sono tantissimi negozi, so pochi abitanti. Io non le avrei date tutte quelle concessioni per aprire i negozi. Troppa roba, troppa concorrenza c'è. Noi a Sosa abbiamo chiuso perché non c'era più il tanto di stare aperti. L'abbiamo chiuso tutti i negozi, ne avevamo quattro, ma li abbiamo chiusi tutti. A Sosso e a Seno l'abbiamo chiuso. Appunto, perché è un errore secondo me che fanno i politici comunali eccetera e provinciali, che danno queste licenze così senza rendersi conto del numero degli abitanti e soprattutto dell'espansione territoriale di un paese o di una città. Non è possibile che si possa, non si possa. Basta pensare a cosa è successo a Sassari, tu guarda tutti i commercianti che hanno chiuso a Sassari. Perché hanno chiuso? Perché hanno aperto tutte queste imprese così multinazionali, che poi tra l'altro i soldi non rimangono nemmeno qua, perché quasi tutti sono di fuori, cioè sono stranieri, sicché nemmeno in Italia rimangono quei soldi, ma fa carità, è un sistema di amministrare assurdo veramente. Vai Roberto. Però c'è una novità, non so se l'avete sentita, ho letta, tutte queste grandi distribuzioni, oltre alle grandi distribuzioni anche quelli tipo Amazon e cose del genere, Zalando, eccetera, eccetera, hanno fatto da poco, cos'era il G20 o cosa cavolo era, G10, e devono pagare 15% di tasse nello stato in cui producono, per dire Zalando o Amazon vendono in Italia un televisore, devi pagare il 15% di tasse in Italia, perché tutte queste grosse imprese, compresa la Fiat, Grande Bussudì, le altre multinazionali, Samsung, c'hanno tutti in paradisi fiscali e non le pagano le tasse nei posti. Invece adesso la musica cambierà, c'è da dire che poi chi ci perderà saranno sempre i consumatori, perché questo 15% da qualche parte devi andare a recuperarlo, per cui magari aumenteranno i prezzi. Però cacchio, se viene qua la metro in Italia, per quale motivo le tasse i soldi serve portare in cose in Francia o Carrefour eccetera eccetera, mentre devi pagare qua in Italia le tasse solo perché c'è la sede a Parigi, non devi pagare le tasse in Italia. Questa è una legge nuova di adesso, mio Roberto, però prima non pagavano proprio niente, pagavano proprio uno zero virgola eccetera eccetera, ma adesso gli hanno imposto questa tassazione, gli hanno imposto ad Amazon e non penso solamente ad Amazon, anche altre multinazionali, perché non era possibile. Però c'è da dire anche questo, queste sono aziende che alla gente fa comodo, perché il primo sono io, quando mi occorre qualcosa ordino proprio da Amazon, primo perché ci arriva in 2 giorni massimo, proprio massimo 2 giorni di tempo e hai il materiale che tu chiedi. Secondo, se non ti va bene lo restituisci indietro, se vengono loro addirittura, perché io ho già fatto una cosa del genere, vengono loro, si ritirano il pacco, se lo rispediscono indietro e dopo nemmeno 2 giorni ti rimettono i soldi nel tuo conto corrente, per dire no, hanno anche un modo di lavorare straordinario, fai con la Sassari, no, a Sassari prendi un televisore, dico un televisore per dire qualsiasi altro oggetto, un elettromestico di qualsiasi genere, vai, lo compri, porti a casa, dopo 2 settimane ti si guasta, vai lì a protestare e ti danno l'indirizzo dall'assistenza, no? L'assistenza appena che arrivi, la prima cosa che vuoi 40-45 euro solo per controllare, più magari ti frega, dice no, questa scheda o questo tipo di materiale che si è rovinato non è in garanzia, ma te ne rendi conto, invece lì ti si guasta, la prendi, la invitiamo, vengono loro, se la prendono, se la riferiscono, ti restituiscono i soldi, e questo non è poco, non è. Sì, a livello di organizzazione, scusate, il monopolio è eccezionale Amat, anche se c'è da dire, tu devi vedere come sfruttano il personale, perché Amat non lavora 24 ore su 24, consegnano anche il sabato e la domenica, adesso non so se lo sapete, c'è l'altro giorno una puntata sul report, una cosa spaventosa come si comportano col personale, perché poi li fanno girare per dire 3 mesi, poi li fanno lavorare, li spremono come gli animali, e poi tu a casa, altri 3 mesi un altro gruppo, dice una cosa Lucia, e non sono solo loro, ci sono quelle, i peggiori di tutti sono quelli di DHL e FDA, hanno fatto vedere delle cose al report da arrestare, proprio cose allucinanti, cosa combinano, hanno fatto fallire tante di quelle aziende, di queste piccole cooperative e cose del genere, da oggi alle domani voi dovete fare 200 consegne in un giorno, sì, ma come cacchio facciamo a dover assumere personale, non ce la fai più, se non lo fai ti mettono le penali e ti arruineggiano, ti iniziano a sequestrare, sono penali esorbitanti, avanti a te Gianni. Grazie per avermi rilanciato, io sono tutti là che sono la porta di Giuliano, là un continuo questo, grazie per il questo e ci sentiamo un altro momento, là. Non mi porti anche a me a picciare? Sì, però lo prendo con la pinza. Stiamo tanti troppo, semmai ti perdi. Tranquillo. Ciao Gianni, saluto anch'io che sto andando via, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Sì, allora anch'io sono andato a salutarvi, ciao Giulio, Roberto, Natalino, Gianni, Coso, l'altro, mi ricordo l'altro ancora, vabbè a tutti, ciao, buona cena, buon tutto e alla prossima, ciao. Anch'io saluto, allora ciao Luca, ciao Natalino, ciao Gianni, alle prossime, ci sentiamo, avanti Roberto. Ehi, ciao a tutti e tre che hanno nominato Giulio. C'era anche Antonio che mi sono dimenticato, avanti Antonio. Campa resistente, vi salutati tutti. Campa. Cos'è questa cosa? Ma fate denunciare i dipendenti, non accettare il contratto di lavoro, molto ci vuole. Perché lavorare sì, ma essere schiavi, no? Magari baduici ti muro. Bambolina o bamboletta? Antu. Eia, dimmi. Ciao Lu, buonasera. Dimmi. Ma forse non hai capito come funziona il discorso. Allora, Amazon c'hanno dei mega capannoni e ci sono per dire 300 metri di capannone e altri 20 metri, 15 metri e ti dicono devi andare a prendere il pacco numero 1 che è a 10 metri, l'altro capo, il capo numero 2 è a 200 metri, deve andare a piedi, tu devi fare 8 ore al giorno, ti pagano 8 ore al giorno. E la cosa brutta è che queste 8 ore tu devi fare 40 km a piedi perché vai da una parte all'altra, ti dice prendi il pacco numero 450.380 ed è al terzo piano al metro numero 5, poi l'altro è tutto dall'altra parte, deve andarci a piedi, c'è lo scanner, ti prendi lei, ti legge la cosa. Il problema è che è talmente grande il locale, non è che per andare in bicicletta, deve andare a piedi, c'è la cosa più brutta che in queste ore ti vai non so quanti chilometri a piedi. Sì, vabbè, io capisco e sono per il lavoratore, a favore del lavoratore, però c'è da dire anche questo, che da quando mondo è mondo qualsiasi impresa ha sempre sfruttato in una certa maniera il lavoratore, per cui no, questo non ci meraviglia più di tanto. Da poco hanno fatto uno sciopero nazionale addirittura, non so se sono riuscito ad ottenere qualche cosa, spero che lo abbiano ottenuto, perché ripeto io sono sempre per il lavoratore. E per cui se a uno non gli sta bene, allora dicono, vai dimmi, ecco come rispondo. Tu mi dirai, ma non è giusto, infatti non è giusto, sono d'accordo con te se tu mi rispondi così. Però il discorso è sempre quello, se non lo fa quello, lui ne trovano un altro, ecco. Casomai sarebbero dovuti essere tutti quanti a rifiutarsi a fare questo tipo di lavoro. Allora forse si sarebbero adeguati e avrebbero trattato meglio il personale. E a proposito di Amazon, pochi giorni fa, quanto sarà, 15 giorni fa, hanno aperto anche una succursale a Cagliari, adesso ce l'abbiamo anche in Sardegna. Vai Robert. Fadia Cazzofa! Questa è l'FM comunque, tanti all'uno per stare. Sì, lo so, te l'hanno aperto a Cagliari, il coso regionale, infatti certe volte tu ordini la mattina e la sera arrivano, se l'ordine è arrivato in tempo, cioè nei tempi, perché c'hanno le consegne, loro entrano non so le 10 del mattino, te lo consegnano la sera, se è disponibile naturalmente il coso, il pacco che ti interessa. La cosa ridicola, io giovedì ho acquistato un apparecchio da questo di Doglianova di Cagliari. Giovedì mi ha mandato il tagliandino che ha spedito, oggi è lunedì, ancora non è arrivato tramite poste SDAME, non è ancora arrivato. Non basta pensare solo una cosa, io ho ordinato, l'ultima cosa che avevo ordinato, ho ordinato alle 10 di notte, quasi stavo per quel carne, ho ordinato alle 10 di notte, l'indomani sera, io avevo la merce che avevo ordinato, l'avevo a casa. Prendi chilo come funziona, ti sembra poco, no, non è poco, guarda, non ti muovi da casa, trovi qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto che tu vuoi comprare, loro ce l'hanno, te lo portano fino a casa, non paghi spedizione, non paghi niente, hai la garanzia 30 giorni di tempo per poterlo rispedire indietro dopo che tu lo hai provato, se non ti va a genio lo puoi rispedire, ti restituiscono i soldi. Un trattamento così, chi è che te lo fa? Non te lo fa nessuno. Poi capisco tu quali sono tutte le dimostranze che possono fare, che può fare il personale. Sicuramente il personale è sfruttato, ma come in tutti i settori di questo mondo, il personale da che lavora è sempre stato sfruttato e sarà sempre così, Robe. Certo, dipende naturalmente dalle imprese, perché sono delle imprese tipo la Ferrari e tipo la Ferrero che al personale gli hanno dato il premio di produzione, non so quanto l'hanno dato, quanti migliaia di euro a testa a fine anno, mi pare 3-4 mila euro oltre il coso, perché hanno lavorato, fanno quel numero di ore, però è un lavoro statico, nel senso fai quello lì, è buono, non è che ti devi munire a currir. Il problema di queste grandi distribuzioni, come questi corrieri TNT, devi correre, qualcuno rischia anche la vita, non li hai mai visti con questi cacchio, tipo anche quelli mondo conveniente, argomenti camminano perché devono consegnare la merce, entro il coso solo prendono la penale. Appunto, che vedi bene, cioè al cliente tutte le beghe aziendali che hanno magari nei confronti del personale eccetera, al cliente non gliene frega un bel picco secco, assolutamente. Al cliente le interessa che sia trattato bene lui quando fa un ordine eccetera, e che sia soprattutto veloce. Poi ripeto, io sono sempre per lavoratore, per carità, ci mancherebbe altro, però purtroppo funziona così, casomai non aspetta nemmeno a loro risolvere questo problema, perché dovrebbe essere qualcuno che comanda, che amministra il mondo, io parlo del mondo perché loro sono mondiali, ad obbligarli ad avere un certo tipo di contratto, ad avere un certo tipo di trattamento nei confronti del personale, eccetera, eccetera. Io l'ho preso così. Avanti Antonio. Capa, sei così e purtroppo devi travagliare, è duro pure, ma dice che le stanno pagando, ma bisogna vedere com'è pure questa paga, è un bel casino, al cliente non sai cosa gli frega, che tu gli fai il servizio, che tu porti, del resto se lo mettono tutti dietro, se lo mettono, se tu gli porti la cosa subito, ebbene sei bravo, se tu non gli porti la cosa subito, è tardi, sei casimaro, ma poi del resto non è una fottinuta, capito? Chi è che ci conosce di lui? Chi è? Buonasera. Mi dai come a me oggi. Ciao, buonasera. Buonasera a lei. Ciao Antonio. Ciao. Roberto, c'è. Ciao Roberto. Cioè, ciao Eugenio. Ciao Roberto. Ciao Eugenio, Roberto c'è anche avanti per Roberto lì. Ti già salutato Roberto. Allora Roberto. Buonasera. Beh, certo, arrivando oggi. Aspetta, scusate un attimo, voglio fare proprio a Eugenio una domanda, siccome deve venire un amico mio, adesso lunedì viene da Genova, questo viene tutti gli anni qua, e mi ha detto una cosa, gli ho parlato di figli, ho fatto, ma non vengono tua figlia con i nipotini, no, no, devono avere il pass, ma non è vero, voi non state controllando a nessuno, il pass di qualcuno avete? No, assolutamente, il pass di qualcuno è libero, è free. Perché dice hanno spasso la voce che Solinas, lui non lo conosce, ha detto, mi hanno detto che Solinas, gli hanno detto le agenzie, che ha detto che ci vuole per forza il pass o il vaccino per entrare, questo cacchio si chiama, non mi ricordo, Green Pass o il tampone, siccome sono bambine, una di 10 anni e l'altra di 8, ma che vaccino gli va, una bambina di 10 anni e di 8 anni, no, gli hanno detto così, l'agenzia ha detto, qua stanno dicendo tutti che se venire in Sardegna deve avere o il vaccino, loro ce l'hanno il vaccino tra parentesi, marito e moglie, e deve avere il vaccino oppure un tampone che gli fa nell'arco di 48 ore, e da un bambino di 8 anni, ma detto, no, no, stava dicendo, invece non è vero, Eugenio. Perché non posso dire, però ti posso dire con certezza che il controllo al posto non ci sono, assolutamente. Infatti quello che dicevo io. Vai Giulio. Ma questo fatto del tampone è una cavolata, perché secondo me è inutile, uno arriva, si fa il tampone e magari risulta negativo. E va bene così. Ma dopo mezz'ora si sposta, si avvicina ad un altro ed è positivo. Non va bene così, dai, non va bene. Adesso stanno attuando il sistema Green Pass, stanno attuando con questa carta, chissà quanta gente riesce a farsi un fasullo anche, perché si può scaricare da internet anche, come io ce l'ho scaricato da internet tranquillamente, non c'è problema, e tanta gente magari se lo può fare anche falso, lo mio non è fatto di sicuro, questo, ma a me non mi interessa più di tanto, anzi io non devo andare a fare assembramento, non devo andare in discoteca, non me ne frega più di tanto, ma per dirti, no, sono sistemi assurdi, sono sistemi assolutamente da persone incompetenti, di controlli di che genere, tutti quanti arrivano qua alla spicciolata in qualsiasi maniera, con tutti i mezzi di questo mondo, e controlli non ce ne sono balle che non controllano più niente, infatti già li vediamo che contagi come stanno sempre salendo tutti i giorni, ieri 233, oggi solo ad Alghero 60, oggi solo ad Alghero, poi tutto il resto della Sardegna non lo so, avanti Antonio. Quello da vedere pure, come c'è la situazione, però Brughisa che sta aggazzata, che dice, se ti fai il vaccino non te lo prendi, non è che non te lo prendi, è una aggazzata, finisci, non finisci all'ospedale, ti pigli una dachipirina, un po' così e ti basta, magari ti fai chissà quarantena se te lo scoprono, e tutto finisce lì. Ecco dov'è, è solo quello il vantaggio, che non si viene a ripidare, capito? Quindi non è che su chi dici, non te lo bigli, non è vero niente, te lo prendi, magari ti senti appena male, ti bigli una semplice tachipirina e ti basta tutto, capito? E noi da misericordia, se lo finisci in terapia intensiva, noi lo finisci. Il vaccino serve ragazzi, serve, la pubblica serve. Ah, non hai compreso l'italiano. Io si è vaccinato da un po' e serve. Perché io quando stavo la gente sbarcata sono sempre in mezzo alla gente. E purtroppo molte volte anche senza mascherina, perché mi dimentico, me lo sarei preso di brutto, ma invece fino adesso niente. Però serve. Ma io stavo dicendo questa cosa qua, adesso io tra un paio di giorni lo faccio, il primo, cazzo, ma l'ebreo da 21 ha già compreso una cosa, no, comunque, e vabbè, io ho detto, questo vaccino che tu fai ti protegge, però non è detto che non ti rubigli il virus, capito? Te lo potresti prendere, però all'ospedale non ci finisci, non finisci né quelli più deboli, non finisci né in terapia intensiva né nuda, devi da chipirina e ti basta, compreso hai. L'hanno spiegato? L'hanno. Sì, sì, è così, è così. Mi hanno detto che non te lo prendi, che te non te lo faccio prendere, però se te lo prendi, te lo prendi in forma molto leggera. Come faccio prima di battaglia, con l'ufficio ospedale. Infatti nulla. Va bene, ora, vabbè, non mi agio più guarda, cosa posso fare? Non fa nulla, lascialo quasi qua, non fa più nulla. Sì, ma in effetti è così, no, ma a me mi fanno ridere questi giovani di oggi, dai 18 ai 40 anni si stanno contagiando loro a catena, proprio tutti i tantissimi giorni, in una maniera impressionante, a differenza magari di quelli più anziani, perché loro si vantavano, noi siamo giovani e non ne prendiamo, siamo furti. Lì è arrivato il momento che adesso loro sono i più contagiati, per cui sì, hai detto bene,